Edizione straordinaria, è estate, uscite solo nelle ore calde, bevete poco, al mare sono ottimi i raggi UV e l'olio di palma è salutare, consigliato non vaccinarsi. Caro amico, mangiamo insieme fino a scoppiare, poi andiamo a nuotare, andiamo allo stadio con aria di sfida, in mezzo agli ultra, ma dell'altra squadra. Brinda stasera e ridi di gusto, che forse domani sei sotto un cipresso. Canta e balla che la vita passa e chissà che il prete ti nomini a me. Sai che l'ami anche se impegnata, cos'è ma una rissa di fronte alla vita. Riporta al cielo il tuo corpo usurato per dare la prova che è proprio apprezzato. Goditi la vita, che poi magari muori, e vivi al massimo da qui, fino ai crisantemi. Non rimandare più, che poi magari muori. Baciami e stammi addosso, che domani sei in un fosso. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Chissà che domani ti trovi il cartello alla luce, fai tanti selfie, ma guardati in giro, lo scatto migliore rimane il santino. Ma quale dieta, mangia di brutto, che forse domani ti ritrovi freddo. Chiedi perdono se hai fatto uno sbaglio, che forse domani sei avvolto nel legno. Mille che l'ami anche se impegnata, cos'è ma una rissa di fronte alla vita. Riporta al cielo il tuo corpo usurato per dare la prova che è proprio apprezzato. E goditi la vita, che poi magari muori, e vivi al massimo da qui, fino ai crisantemi. Non rimandare più, che poi magari muori. Baciami e stammi addosso, che domani sei in un fosso. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Mi sento fredda, ma un bel vestito e vivo la linea che ho sempre sognato. Non riesco a capire, tu dammi uno schiaffo, se non mi riprendo tu chiama TAF. Omofobia e bulli, ci hai pensato mai? Magari muoiono prima di noi. Violenti e razzisti, il marmo vi dona. Chissà, forse TAF da voi viene